Siamo qui con l'autore di questo libro, Quando il fumo si dirà da Federico Raponi, con il Duca Luciano, pane di Casetta Rossa. Siamo qui a farci una chiacchierata su questo libro, che è un libro che racconta un bel pezzo, quasi la vita di Federico, ma in realtà dentro la vita di Federico racconta un pezzo di storia di tanti e tante di noi. Io sono arrivata un po' dopo, Luciano scherzando diceva che per la prima volta mi trovo a fare la giovane, perché guarda, io tutta la parte degli eventi non li so. Diceva, vabbè, quindi per una volta per ragione. Il libro è interessante innanzitutto perché sceglie di raccontarsi in terza persona, quindi questo mi incuriosiva e ti volevo chiedere perché. E con capitoli molto asciutti e molto secchi racconta tutta una serie di storie. Si parte dal liceo, racconta tutto il pezzo del movimento di Roma, l'avventura dei centri sociali, in particolare le tre occupazioni di pirateria, io mi ricordo l'ultima, sono arrivata a quel punto, fino insomma arrivare a Genova, al Teatro Valle e soprattutto la piccola, enorme storia di Radio Onda Rossa, soprattutto per chi in questa città insomma, ha vissuto e militato, la Pantera. Innanzitutto quindi chiederei a Federico, prima perché ti racconti in terza persona e perché a un certo punto hai deciso di fare questa cosa qui. Gli input venivano soprattutto da Valentina, la mia compagna, che nel sentire i racconti, oppure quando incontravamo persone, visto che conosco tante persone, alla fine mi chiedeva: ma perché non ci scrivi qualcosa sopra? Però ero un po' scettico perché non sapevo a chi potesse interessare e poi a che pro. Poi c'è stato un altro elemento. Forse quello decisivo, quando Andrea Catarci ha scritto il suo libro autobiografico, Generazione di rimessa. L'ho intervistato per la mia trasmissione in radio e lui mi ha proposto poi di presentarlo insieme in un evento fuori Roma, a Trevignano. In quell'occasione, parlando del libro, sentendo le sue argomentazioni e leggendolo poi, ho detto: vabbè, ma allora è un'operazione fattibile. Poi, memore anche di tutte le esperienze con le generazioni precedenti, per esempio. Un capitolo fondamentale per il mio percorso, non solo mio personale, è stato quello del processo Priebke a Roma. Priebke è uno dei criminali responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, dove ho avuto modo di conoscere due partigiani della resistenza romana, che sono Franco Bartolini dei GAP e Orfeo Mucci di Bandiera Rossa. E quindi mi sono reso anche conto di come è importante sapere, capire quello che è successo prima. Quando altre generazioni hanno cercato la propria via per trasformare il mondo in altri contesti spazio-temporali. Quindi mi sono reso conto che anche la mia esperienza domani potrebbe interessare chi sta facendo il proprio percorso. Chiaramente ognuno poi si sceglie le proprie forme di lotta, i propri obiettivi, però è utile capire che insomma c'è un filo rosso alla fine che ci unisce tutti e tutte. La terza persona mi è venuta subito automatica, per un paio di ragioni, soprattutto perché è una storia attraversata da migliaia e migliaia di persone, non solo a Roma, lungo i decenni, e quindi è anche rendere un tributo a chi ha fatto le mie stesse cose o l'ho avuto accanto o l'ho incrociato per un solo momento. E in più è un modo per vedersi in maniera un po' più oggettiva, a distanza di anni, mettere insieme tutto quello che si è fatto, perché poi non esprimo troppo opinioni o giudizi nel libro, sono un po' i fatti che parlano. E quindi secondo me vedersi in maniera distaccata aiuta ad avere un quadro più chiaro di quello che è stato e di quello che mi ha formato poi alla fine. Questo devo dire che è una situazione interessante, nel senso il libro non è un libro di elaborazione politica, anche rispetto alle scelte che tu racconti, racconti quello che fai, ma anche tutta una serie di questioni dinamiche, poi sono state anche grandi a Roma, ci sono state insomma, stagioni importanti, laboratori di politici importanti, in cui tu appunto in qualche modo racconti e mi piace che in qualche cosa per ogni capitolo ci sono delle immagini visive, quindi o delle persone o delle piccole immagini con le quali tu provi a affermare certe esperienze. Ah, intanto, visto che c'è Lucio qui, che penso che un pezzo di percorso avete condiviso, vi chiedo di raccontare un pezzetto di quello che per esempio non ho vissuto io. Io ho iniziato invece col processo Priebke, che è interessante che tu lo dici, io avevo 15 anni, leggevo del processo Priebke sul giornale e da sola per la prima volta sono andata a piedi alle Fosse Ardeatine e da lì poi, incrociando il centro sociale e la strada, è nata appunto la militanza, quello e poi la grande ondata dello zapatismo che è stata importantissima, insomma, sull'immaginario di tutti noi. E quindi rispetto appunto alla narrazione a specchio, mi interessava capire quanto invece ti sei rincontrato in quante cose di questo libro. Io mi sono ritrovato in tantissime di queste storie, però una cosa da cui vorrei partire: noi 2-3 giorni fa qui abbiamo fatto un incontro con il coordinamento delle scuole e i collettivi di Roma Sud, che si vedono qua, diciamo, hanno eletto questo posto un po' a casa dell'incontro, a cantiere di sperimentazione. Su Genova era questo incontro, no? Loro sono dei collettivi molto eterogenei, non sono delle generazioni di oggi, e hanno voluto incontrare chi aveva partecipato alle giornate di contestazione del 2001. Parlandoci, io mi sono accorto immediatamente che noi davamo per scontato tantissime cose, proprio tantissime cose. A volte non abbiamo la percezione del tempo che passa e del mutamento del generazionale, no? Per cui anche il solo dare per scontato la parola Genova, a volte, logicamente per le avanguardie di questi collettivi, militanti e tutto quanto, ok. Però per quelli che si affacciavano, magari era il primo giorno che partecipavano a un incontro, sentire questo Genova, Genova, a un certo punto uno ha detto: che è successo a Genova? Cioè, quindi c'è, cioè, secondo me, una responsabilità, no, in chi ha vissuto anche la semplice attivismo, la semplice militanza lì, in qualche modo provare a raccontare delle storie, metterle in video, metterle nelle pagine di un libro, perché poi sappiamo che se te in qualche modo non lo fai, qualcun altro lo fa per te e poi la storia assume altre direzioni. Invece la storia dovrebbe essere, no, un incrocio molteplice di tante piccole storie. Perché poi io penso, se io racconto i 30 anni, forse mi sono affacciato un po' dopo alla politica di Federico, però li racconto con sfumature diverse da quelle di Federico, così ognuno di noi qua dentro, no? E poi però è la somma di tutte queste storie che può dare un immaginario di un'epoca, di alcuni anni. E in questo libro io ho trovato intanto l'importanza di averlo fatto, di aver messo comunque nelle pagine di uno scritto, scritto bene, 30 anni di cose accadute, che se uno se le va a cercare nei media di oggi te li racconta Repubblica o te li racconta qualcun altro. E questo lavoro, no, è un lavoro che forse dovrebbe diventare proprio all'epoca. Un confronto interessante sarebbe come all'epoca dell'informazione istantanea e tutto quanto, poi le storie vengono sedimentate in un racconto, che non è semplice. Io a Federico invece volevo chiedere un'altra cosa, cioè l'idea mia, che io dissi pure ad Andrea Catarci, no? Che mi ha detto: io sto scrivendo una biografia. A me la biografia mi dà l'idea di uno che a un certo punto appende tutto a chiodo e dice: vabbè, mo scrivo l'autobiografia della mia vita, perché tutto, diciamo, il mio percorso è finito e io metto ai posteri la mia storia umana, politica. Ti volevo chiedere, e invece, come la vivi te di aver fermato questi primi 30 anni? Come un inizio per i prossimi 30, o come dire: io ho fatto il mio, adesso questo? Beh, chiaramente è cambiata la mia militanza nel corso dei decenni. C'è stato piano piano un passaggio, per cui un estremo è stato il primo centro sociale, che l'ho vissuto come la totalità delle mie giornate. Ci dormivo a Scatasuna, e quindi ruotava tutto intorno a quell'esperienza. Fino adesso invece, che seguo due mondi culturali nello specifico, perché poi mi interessa un po' tutto, dalla musica alla letteratura, però seguo per la radio soprattutto due settori, che sono il cinema e il teatro. E questa importanza relativa alla cultura l'ho sviluppata nel corso degli anni. Se per esempio all'inizio le attività culturali degli spazi che occupavo autogestivo erano legati al far venire gente, fare entrare soldi per l'autofinanziamento della struttura, e quindi erano un po' viste come uno strumento. Tra l'altro, in quest'ottica, gli artisti e le artiste davo per scontato che vedessero le cose come le vedevo io, come dicevi un po' te prima. Mentre poi mi sono reso conto che chi fa arte, la sua militanza, la sua politica la fa attraverso l'arte, e questo valore gli va riconosciuto, perché secondo me l'arte va finanziata, non può essere solo strumento per finanziare te, ma devi riconoscere pure il valore di quello che fanno. E mi sono reso conto di quanto sia importante la cultura come strumento per cambiare la società. Prima tutto si basava sulla militanza, dal volantinaggio alle manifestazioni e via di seguito, adesso mi rendo conto quanto la battaglia sia importante a livello culturale, di quanto l'arte aiuti a prefigurare un mondo possibile. E quindi mi sto dedicando molto a quello, non ho più tempo per un certo tipo di militanza, ma credo che sia importante anche le esperienze culturali, mi interessano molto quelle che abbiano un senso collettivo. Secondo me le esperienze per esempio del nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo, del Teatro Valle Occupato, ma tutta la stagione che ha seguito un po' quell'onda in tutta Italia, dalle isole al nord, tutti i cinema e i teatri che venivano occupati, secondo me... Milano anche un grattacielo, la Torre Galfa. Sì. Macao. No, quando hanno fatto la Torre Galfa, grattacielo Pirelloni, in disuso, di quelli vecchi perciò, non il nuovo skyline di Milano. Quello è stato occupato prima che poi dopo occupavano Macao. È stato occupato per un paio di giorni, l'hanno sgomberato e c'è stata però rimasta occupata la via. Ed era un delirio, c'era la gente che nel senso che sotto la via era peggio che non quando stavano dentro, perché lì alla via per 2 o 3 giorni, io stavo a Milano, avevo avuto la fortuna che a grattacielo l'avevano già sgomberato, poi facevo ammattare alle risate e ho fatto pure un tacco poi perché poi sono andati a occupare Brera, a fianco lì all'Accademia. E stava chiusa, ma pure lì sono durati un giorno. Lì era diventato buffissimo perché la gente arrivava, che so, dice che fa la festa a casa, era il compleanno, ragazzi, damosela la punta là, la gente arrivava, aveva la roba da mangiare, da bere e partiva la festa. C'erano quelli della Milonga, delle varie scuole che tutte le sere, senza averle organizzate, arrivavano, però c'erano 2 scuole in contemporanea, a 2 parti, con loro stereo, col tango, e parlavano. Mo, scusate se mi metto in mezzo, però è vero che secondo me è stata una grossa esperienza quella cosa lì, anche perché ha coinvolto molti, erano soggetti, sì, c'era una parte, un buon 25%, che era gente che o aveva militato o comunque bazzicava centri sociali, serate reggae, rave, concerti punk, già c'era più propensa, però ha aggregato un grosso, un buon 70-60% della gente che ha dato vita, si è fatta anche il culo, ha preso denunce, nei posti che sono rimasti come il Valle, ha fatto la militanza, ha vissuto là 24 ore su 24, 3 anni, cioè 3 anni. E è stata una cosa grossa perché ha coinvolto gente, tra l'altro una delle cose che tanto parlato dal 1990, tutte le crisi del post-fordismo, lavoro immateriale, culturale, ma l'unica cosa poi che si è espressa è stata questa cosa qua, non forse sui posti di lavoro, no, perché forse il conflitto dei posti di lavoro funziona solo sui flussi di merce, la logistica e altre cose contano poco, non è che creano grossi problemi al potere, però il fatto che a quel punto ti lanci su questa cosa delle occupazioni e autogestì delle stagioni culturali, perché al ballo era esaurito, era soldato tutte le sere e c'erano almeno 2 spettacoli diversi a settimana, più le repliche. Cazzo, tu hai coperto a Roma, hai coperto una stagione culturale. No, mi pare, ma non è mai venuto né quando stava al Blitz, figurati al Blitz, metteva paura. Né è mai venuto al Forte, però al Valle ci andava, era contento, come ne parlava bene questi cazzo di ragazzi che avevano occupato il posto, lo facevano funzionare. Secondo me il rapporto tra arte e politica è stato molto fecondo, è stata, come scrivo anche nel libro, l'ultima esperienza collettiva a entusiasmarmi, perché partecipando alle assemblee sentivo non parlare il politichese a cui era abituato ed era gente preparata. Tra l'altro, come dicevi te, hanno garantito 3 anni alla stagione culturale a una città. C'erano serate appunto in cui la fila all'ingresso faceva tutto il giro dell'isolato. Tra l'altro coinvolgendo, per dirne 2, uno è Ugo Mattei, che è stato uno degli estensori dei quesiti referendari sull'acqua pubblica e sul nucleare, e Stefano Rodotà, che è stato candidato alla presidenza della Repubblica. E artisti internazionali che venivano, 2 laboratori che hanno messo in piedi al Valle, che poi sono continuati dopo lo sgombero in altre, uno allo Spring Time, sì, e altro, era stato un po' più nomade. Però ecco, secondo me è un esperimento molto molto interessante e che ancora poi continua, altre esperienze continuano tutt'oggi. La mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, visto che comunque non hanno ottenuto quello per cui si stanno battendo da anni, continua e continua anche negli spazi che si prendono in gestione. Poi tra l'altro, considerando un'ultima cosa, scusate, a un prezzo poi accessibile, dimostrando che nonostante le spese che ha il teatro, perché un allestimento che vale, che spacca, insomma, vedono pure con gli allestimenti del teatro dell'opera, ossia hanno fatto con i soldi del teatro di Amsterdam il Benvenuto Cellini con Terry Gilliam, che ha lavorato con i Monty Python, quello che pure è discusso a Las Vegas, che capisse, e la vedi la differenza di quando ci stanno i soldi dietro, però comunque metti dei prezzi che non ci stanno, perché anche quando l'allestimento fa schifo tu mi fai pagare dai 40 ai 120 euro, vanno a teatro, quando invece il Teatro Valle ha dimostrato che si può fare con dei prezzi più bassi e la gente ci viene, perché comunque recuperi sul fatto che la gente ci viene e c'è sempre il pienone tutte le sere di prezzi, perciò comunque secondo me è stata importante anche quella come cosa, sono stati pure una dimostrazione a tutti i pianti che stanno sempre a piangere, specialmente il Teatro dell'Opera, Roma, Teatro Argentina, Pavarotti, il Teatro dell'Opera, stanno sempre a piangere, stanno hanno soldi a destra e a sinistra, ma allestimenti decenti sono rare volte, ecco, giusto negli ultimi anni, Terry Gilliam, poi la cura del Bause che ha fatto la Bohème, o Sofia Coppola o i soldi però di Valentino, perché faceva i costumi, e hanno fatto una Traviata spettacolare. Mi sono andato a vedere, devo dire, cazzo, sembrava di stare al cinema, non a teatro. Però viali soldi a destra e manca, che fine fanno questi soldi? Perché comunque il Valle è un esempio, che anche a meno se possono fare cose. Poi, d'accordo, le spese ci stanno quando fai l'allestimento, non chiudiamo per culo. Sì, hanno messo in pratica tutto quello che ho praticato io negli anni con le occupazioni dei centri sociali. Tra l'altro sperimentando anche una gestione democratica vera, nel senso, oltre a fornire cultura di qualità e prezzi accessibili, però nello stesso tempo mantenendo spazi di sperimentazione, mantenendo comunque pure là un cartellone aperto, mantenendo anche una capacità di elaborazione comunque aperta. L'arte racconta del mondo, racconta della società, racconta del cambiamento anche nel modo in cui la pratichi e li organizzi. Io pure ho pensato che alla fine di questo anno e mezzo di pandemia una delle poche cose che si è mossa è proprio ripartita da lì, una delle cose che è stata più distrattata, e quindi su questo forse ci dovremmo fare una domanda anche rispetto a quanto politicamente il fatto che quel mondo lì sia stato un mondo messo completamente a tacere, sia in termini di espressione che in termini anche di sostegno, ma questa è una battaglia vecchia. La stessa creatura, la Fondazione Teatro Valle Bene Comune, peccato che sia finita come è finita, perché secondo me era un esempio replicabile rispetto alla gestione della cultura, di come le strutture dal basso potrebbero essere gestite. Lancio due suggestioni. Una è la radio, nel senso che per molti e molte di noi, per tante generazioni che sono cresciute a Roma, Radio Onda Rossa è stato comunque un punto di riferimento importantissimo che è l'espressione di Antico Paglio, però piacerebbe che ci raccontassi, visto che l'hai attraversato tanto nella tua vita, quell'esperienza lì, e in qualche modo appunto anche lì l'idea di prendersi una radio, la comunicazione ribaltata, no? Tutta una sperimentazione anche lì di democrazia, di apertura dentro la radio, e quanto oggi esperimenti, spazi e voci del genere hanno ancora difficoltà a resistere, se invece è caso, come forse sempre bisogna fare, di interrogarsi continuamente sul ruolo e sul senso delle cose che si fanno. Per me è cominciato tutto dopo la parentesi dell'85 in cui andai a denunciare l'aggressione fascista ad Anubi davanti al mio liceo. Quello fu il momento in cui mi si chiede per la prima volta Radio Onda Rossa. C'era trovato Ciuffettone, no? C'era Ciuffettone, sì, a condurre. Era la trasmissione degli studenti medi fuori dai banchi. Poi nel 95 avevo capito subito la portata storica del processo Pritke e ho detto, ma io questo processo lo seguo. Seguo le udienze che si svolgevano al Tribunale Militare. A Viale delle Milizie. A Viale delle Milizie. E lì è venuta poi l'idea di fare una trasmissione di memoria storica, grazie anche e soprattutto a questi due partigiani con cui sono entrato in contatto. E quello è stato l'inizio. Poi una trasmissione musicale, anche lì un passaggio importante, perché avevamo cominciato mettendo i dischi, ma poi su idea di Alessandro, che faceva la trasmissione con me, abbiamo cominciato ad andare in giro per spazi occupati autogestiti a registrare i concerti con il DAT, quindi in digitale, col nastro ma digitale, e poi le ritrasmetta un brano per ogni gruppo nella trasmissione. Secondo me anche lì è stato un momento importante, anche perché tra l'altro ho creato un archivio di decine e decine di gruppi che adesso qualcuno sta cercando di digitalizzare. Anche quello è testimonianza, per esempio, di quanto soprattutto nel decennio degli anni 90 i centri sociali soprattutto abbiano avuto un ruolo fondamentale a livello non solo politico e sociale ma anche culturale, perché suonavano veramente tante band allora, adesso non è più così, ma c'è stato un fiorire di gruppi, c'erano anche per tanti generi, soprattutto hardcore, c'erano le pomeridiane, suonavano per tutto un pomeriggio ed erano band che suonavano magari un quarto d'ora a testa. Sì, però arrivavano pure grossi gruppi dagli Stati Uniti. Come no? Soprattutto grazie al Forte Prenestino, che in questo è stato quello a livello più internazionale. Sì, però sì, perché pure se non facevano un concerto a settimana, pure Trullo, Puccini hanno fatto dei concerti grossi, anche lo stesso il Palafaro. Anche sì, però anche gli altri centri sociali non è che non hanno fatto, pure per Dita la Strada, arrivati ospiti di un certo livello. Ossia, so, la strada Don Letz, Don Letz era stato il bigliaio d'Ana, ma comunque era il DJ del rock, e poi quello che fa il primo film, pure per il giamaicano, lui che fa il primo film sul punk inglese, Instant Movie, quello punk the movie, durante la scena 76-77, per cui finiva di mettere i dischi, poi arrivano Clash, The Pistols, e band qua, e lui che filmava con il Super 8. Perciò no, gli artisti internazionali sono arrivati, ma io vorrei lo stesso che ti posso dire, Electrode. Ecco, per ritornare al discorso che i soldi certo servono, perché Electrode arrivavano DJ che volevano 3.500 euro per un'ora. Con le pretese, voglio il mango e non la mela, voglio il materasso acqua, pure se sto a dormire dentro al centro sociale, però il materasso mio deve essere acqua. Stanno bene pure i sorci, ma voglio il materasso acqua. Che te costavano, perciò una sera dove in due arene ti suonano e per ditte a 10 DJ, il più scrauso ti chiede 1000 euro, quello più stronzo te ne chiede quasi 5000, te costano. Eppure non ha mai fatto grossi guadagni, ma non è mai andato sotto, li andava a pari. Il festival funzionava, si sentiva bene, i musicisti tornavano pure a gratis l'anno dopo, che ne so, Vitali che stava a Roma due anni dopo che aveva suonato, vede che c'è l'Electrode, chiama, contatto che c'è, io non voglio soldi, sto a Roma, a me è piaciuto tanto, è forte, se volete c'è un buco, me infilo, sono gratis stasera, vabbè. Vieni, Vitali che è uno che fa il resident Ibiza, è stato anni, sai quanto guadagna una stagione Ibiza, un DJ? Ed era arrivato un anno, mi lo disse Massimino, non so se è l'organizzatore, perché lui lavorando come fonico così, conosce pure altri ambienti ufficiali, è arrivato uno, non so se dell'Enic Fest, quello che fa a Imola, o di un altro di questi festival grossi, e ha detto, raga, ma come cazzo fate? Questo sembra che sta un festival istruzionale, quelli che famo noi. Si sente benissimo, tutti gli statisti e si paga 5 euro, ma come cazzo fate? Oh, non stai in fissa che devi guadagnare, c'è un'altra concezione, anche perché non è che lo sta a fare come il lavoro tuo. Sì, è un lavoro organizzare una cosa del genere, devi avere la professionalità, però lo fai dentro un'altra loggia, che fai campi con altro e alla fine lo fai. Però questi centri hanno fatto delle cose grosse. Negli anni 90, il discorso tuo, l'avrei voluto fare pure io, negli anni 90 hai avuto un'egemonia culturale, la sinistra non aveva più. Tu hai scartabellato proprio... A livello internazionale, europeo sicuramente. Sì. Tu hai fatto un'egemonia culturale, ma non solo sulla musica, dall'hardcore alla techno, al reggae pure sono arrivate tutte le star portate da quattro sfigati, ossia tutti i vari sound romani. Anche il più sfigato così ha portato dei grossi artisti ed è riuscito a farlo, che in Giamaica o a New York per dire qua l'onda ti riempiono gli stadi, ti riempiono, tu l'hai portati qua e l'hai fatti pagare un cazzo, ma se per dire al forte ti pagava 500 lire per entrare. Fino tipo a metà anni 90, 500 lire sotto scrizione. E in questo la radio è stata amplificatore di tutto il fenomeno reggae ragamuffin, le posse e il rap. Comunque in radio sono state amplificate. Poi c'è stata l'esperienza della trasmissione di cinema, poi quella di teatro. Secondo me la radio segue un po' pure quello che è l'andamento del movimento. Quando c'è il momento di riflusso, la radio lo vive in pieno, come gli anni che stiamo attraversando. Però secondo me mantiene una sua freschezza per un fatto fondamentale. Tu puoi ascoltare radio mentre fai altro, mentre ci sono altri media che ti assorbono completamente, come il video, la radio ti permette anche di far altro. E poi il rapporto che mantiene con chi ascolta, per cui chi vuole può intervenire in diretta, quello è un altro degli strumenti che ti permette di essere fruibile e vivere negli anni. La radio, anche grazie alla sua coerenza, è rimasta un punto di riferimento fisso negli anni, anche se poi, secondo me, di tutto il patrimonio che accumula negli anni, secondo me non viene valorizzato abbastanza. La radio, secondo me, vive un eterno presente, anche perché comunque le generazioni cambiano. Chiaramente i più giovani vengono avanti, i vecchi se ne vanno, quindi secondo me non si valorizza abbastanza tutto quello che si è fatto, che poi è un patrimonio. Come diceva Duca, gli anni 90... soprattutto poi grazie a una pubblicazione che è uscita poco più di un anno fa, Detonazione, che mette insieme tutto quello che hanno significato gli anni 90, soprattutto a Roma, dai centri sociali alle riviste, alle radio, ai rave, illegal rave. Sì, alle BBS. Che tu sei stato un'avanguardia. A chi scriveva libri. Politica, culturale e sociale. Ma il libro è leggibile perché lo fa un carattere 8 per farlo uscire quasi 900 pagine, se no il libro ti lo facevi vedere, era di quasi 1500 pagine veniva. Prima non lo tenevi in mano, ora non lo leggi. Il problema però, per farti capire, solo che quelli che l'hanno curato hanno detto no, guarda, ci dobbiamo mettere tutto, poi sti cazzi se lo leggono o meno, l'importante è che esista una testimonianza di tutto quello che è successo a Roma. Ed è una cosa, mette paura, mette. Però guarda pure i giornali, anche quelli più ufficiali, anche ne so, La Stampa, Repubblica, Il Corriere della Sera, sulle nuove tecnologie e le BBS. La prima riflessione in Italia, che poi prima venne appresso, è stato Rodotà, che era l'unico politico anche intellettuale che si interessava di tecnologie in Italia e di quello che sarebbe successo con la rete. Poi le cantonate ne abbiamo prese tante, pensavamo chissà quale democrazia, poi siamo ritrovati la democrazia di costruisce il carcere da soli con i social network. Certo, loro non impongono nulla, però hanno costruito un meccanismo che ci imponiamo da soli, anche il punto di vista, tutti a farsi la foto col piede così, ma ti piace fotografare un piede, fotografare in un altro modo. E addirittura non ci abbiamo più manco il punto di vista, ormai non è libero nostro, che viene dato così, perciò democrazia, però noi abbiamo aperto un dibattito che per dire in Germania, in Francia, negli Stati Uniti c'era, in Italia non c'era, e i giornali dicevano, fai pure il fatto che come se ne accorge la Fertinelli, chiama due sfigati di Conchetta e Decoder a curare la collana interzone con tutti i saggi sulle nuove tecnologie. Perché? Perché nessuno ci capiva un cazzo, manco gli editor della Fertinelli, ma che cazzo so le nuove tecnologie, che cazzo è la rete, insomma pure i scrittori. Dai Rutherbiss e poi Wuming e Filo, ma lo stesso Valerio Evangelisti, che forse è uno dei pochi scrittori italiani che campa, non grazie alla letteratura perché finisce in TV, campa per i libri che vende in tutto il mondo, perché con la storia di Emmerich c'è pure il gioco della PlayStation e lui nel posto a casa non fa un cazzo grazie alle vendite che c'ha. Lui è un compagno che sì, certo, ha fatto pure il 77, gli anni 70 che è più grande, ma che a Bologna, la seconda metà anni 80, primi 90, stava al centro sociale, i vari centri sociali di Pinuccio, di quelli di Ciapetella che si sgomberavano sempre, ogni settimana cambiava nome, il centro sociale, il luogo, però stava lì a farsi il turno in sottoscrizione, a stappare, a spinare e dire, lo stesso Evangelisti, per dirti. Perciò alla fine tutti si sono accorti, la musica, tutti i gruppi poi che sono nati, che adesso hanno fatto sordi, che per dirti l'Onda Rossa Posta, Sassi non ha mai fatto, non è mai riuscito a fare, però le case discografiche all'epoca, adesso funzionano in un altro modo, ma l'ultimo decennio del disco, l'industria discografica poi è morta, sono stati gli anni 90. Gli ultimi botti da un punto di vista economico, il Britpop, cose che hanno portato soldi alle case discografiche, l'ultimo alzata qui di spalle prima di crepare. Eppure se si sono interessati a gruppi, hanno mandato i loro uomini, hanno dato un calcio in culo, tornate nelle strade e andate a pizzicare dei gruppi, perché sennò quelli che produciamo noi non stanno al passo dei tempi. Tu comunque hai spostato, hai costretto l'industria, perché tu rappresentavi quello che c'era di nuovo e perciò si potevano andare a cercare per strada. Poi l'hanno trovato, hanno costruito poi i loro gruppi e tutto lì, però hanno dovuto mandare gente per strada. Come quando se vedete la serie, quella che mi ha prodotta da Scorsese, Vinyl sul punk in America. Il produttore che c'è, glielo lo dice dopo che vede il concerto del New York Dolls. Lui gli dice, regà, avete rotto il cazzo, i soliti gruppi, io non firmo più il contratto, manco più le Zeppelin, impedisco le Zeppelin in America. Ritornate per strada, riniziate a andare ai concerti, drogatevi, fate la fila fuori, fate quello che cazzo vi pare insieme ai pischelli e capite quello che cazzo sta succedendo di nuovo, perché se no noi tra due anni siamo tagliati fuori. E loro l'hanno capito anche meglio di noi, l'industria. Ma io proprio questo che volevo chiedere a tutte e due, in realtà. Mi avete anticipato su alcune cose, perché gli anni 90 a un certo punto sono diventati appunto questa onda che un po' se possiamo far partire con la Pantera. Poi prosegue con 3.000 altre cose, la stagione dei centri sociali che occupano ovunque. Poi Roma è una cosa, il resto d'Italia è un'altra, perché a Roma sarà una diffusione incredibile. Ma guarda che pure a Torino, eh? Sì, però... Torino la... prima degli anni 90 erano due centri sociali, la metà degli anni 90 di colpo era riempita. Beh, Roma 30-40 sì, era... Sì, un punto erano 40. Tutti diversi poi, eh? Vabbè, poi gli immaginari che venivano dall'altra parte dell'oceano, tutta una cosa del genere, anche l'utopia della costruzione di media indipendenti autonomi, no? Sì. Indie media, la diffusione delle radio, l'importanza che ha avuto Radio Gap a Genova, no? La rete delle radio che saranno messe, insomma, a raccontare quelle giornate, sarà fondamentale in quei giorni in cui ancora non c'erano i social network, i cellulari ce l'avevano un po'. Ecco, però quell'utopia, no? Poi in qualche modo, come spesso accade, o come dice lui con in qualche modo il riflusso, la sconfitta che c'è stata a Genova, oggettivamente a Genova. Ha massacrato Genova, E più subito dopo è stato il crollo della civiltà con le torri gemelle, lì quell'anno, 2001... perché poi è partita la guerra permanente, che più non la chiamano manco guerra, questa operazione di polizia permanente che significa fuori, sta 20 anni a fare guerre che non finiscono mai, a volte ti manco che combatti tipo in Afghanistan, stai lì per anni, e però significa, lo stiamo vedendo ultimamente, lo stiamo vedendo pure in un paese come la Francia, dove tutto potevo pensare che succedeva pure in Francia, e io mi pensavo che era limitato solo alle bagliette, dite che ormai la guerra è interna, tant'è vero, mentre fuori i soldati si muovono come forze di polizia, ora le forze di polizia si muovono come truppe d'occupazione coloniale, dagli Stati Uniti al Cile, all'Italia, alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, ormai è così, perciò è, comunque c'è crollato un mondo addosso qua la generazione, cioè, no, seppellito proprio. È proprio un ciclo secondo me, perché in quei 10 anni fino al 2001, che a un certo punto crolla tutto insieme alle torri gemelle, certo poi le persone rimangono e costruiscono 3.000 altre cose, però quella roba lì in qualche modo viene demolita, no? E sta pure lì la sconfitta, perché io mi ricordo, voi ricordate meglio di me, però l'isola nel cantiere a Bologna, sì. Che cazzo lo spazio che era, dove è nato di tutto, no? Da quel laboratorio di incontri culturali, musicali. Oggi metà dei cast di Sanremo e di altro sono passati da là, per dire, no? Ultimamente no, sono tutti pischelli, però qualche anno fa uno era di là, l'altro pure. Cioè, l'egemonia che è quella che diceva il Duca, che si era costruito in quegli anni, però va anche raccontato che a un certo punto... Ma se sulle poste aspetti i soldi la RAI per farci il film e mandarlo la RAI sulle poste romane, sulla storia di Onda Rossa Bossi. La regia dei balestrini, ma porco mondo, ha speso i soldi la RAI per fare un cazzo di film. Mo qualcosa vorrà dire che tu hai spostato qualcosa. Il film di Salvatore, il Sud, con la colonna sonora del 99. Io volevo dire infatti una cosa, io Federico il libro l'ho tra le mani adesso, sto sfogliando, mi fermo nei paragrafi, purtroppo invece io l'età legale ce l'ho, ricordo ogni singolo evento. Ma dai, io l'ultima 70 pagine. Io ricordo bene la copertina, no, mi hanno denunciato però voglio... il blocco ferroviario. Due cose mi hanno colpito solo sfogliandolo. Il Riot è orfano. Il Riot era stata una cosa che il coordinamento dei centri sociali, che allora c'era, aveva deciso di fare per ostacolare l'estate romana, mi sembra, di Rutelli. Noi stavamo lì e poi mi ricordo benissimo off, perché a quel punto, organizzato da Manolo al Forte Prenestino, chiesero... L'idea era la nostra di Toradzi. Noi eravamo Manolo, io mi metto in stati mezzo. Noi, noi di Toradzi eravamo più vecchietti. Io mi ricordo Manolo, vabbè, e altri. Mi ricordo che ognuno andò... C'è sdegno dietro di te. Ognuno andò, vabbè, ma a prescindere dalle... No, vabbè. Sì, per carità. Ognuno andò dai centri sociali, dalla strada andammo io e Scordino e fu come partire per un viaggio, perché noi stettimo una settimana al Forte in un circuito autoprodotto che io penso che sia innovativo anche adesso. Se io lo vado a raccontare a lei, a uno più giovane, non se ne fanno un'idea di quello che può essere successo in quegli anni. E poi, c'era un'avanguardia anche a livello tecnologico che potrebbe essere validissima ancora adesso. Cioè, io stessa mi ricordo che passai quella settimana, io andavo in giro così già allora, la mia migliore amica diventò una pacca bestia, che ogni volta che io la incontro alle manifestazioni ci abbracciamo. Dopodiché una cosa che ti voglio dire che mi ha commosso molto è il ricordo su Bianca. Stavo sfogliando le pagine, ho trattenuto lucciconi e tutto. Una storia incredibile quella di Bianca. Eppure Bianca comunque metteva in campo un femminismo non stucchevole, un femminismo sempre comunque d'avanguardia che oggi servirebbe. Cioè non ortodosso, Bianca non era mai ortodossa, era sempre comunque molto avanti, anche il messaggio di Bianca. Io mi approcciai alla causa femminista una sera che sentì parlare Bianca, poi io frequentavo casa sua perché la sorella più piccola stava in classe con me, quindi quando vidi Bianca a Pirateria mi si aprì un mondo e lei mi infilò per la prima volta dentro a quello, tant'è che per me quello è rimasto il mio modello. Come sento un femminismo stucchevole non riesco a partecipare. Cioè, anche da quel punto di vista c'era un'avanguardia valida tutt'oggi, quindi io sono d'accordo con chi dice a Genova è finito, le Torri Gemelle, d'accordissimo, Però quel patrimonio io me lo tengo e resta agli atti, cioè ormai è stato fatto. Cioè, secondo non... me però... Ai cortei, ragazzini, io non intervengo più. No, è capitato 2 anni fa, prima della pandemia, di andare a un corteo e c'erano delle ragazze molto più giovani di me che poi hanno occupato la strada, rosa, E io dissi anche una frase acida, però che mi venne dal cuore, e loro mi abbracciavano e dissi: certo, non riuscite a inventarvi niente, ancora ascoltate le canzoni nostre. Perché andavo a palla le canzoni del Luchino, delle Pozze, ho detto: porca la miseria, ho chiuso. Ma io penso che questi siano dei fiumi carsici che ogni tanto vengono fuori, perché io, diciamo, con il Duca abbiamo fatto un sacco di cose insieme, poi ci conosciamo pure perché io non mi fa piacere. Perché non te vedo mai, quindi ho detto vado, ma in 3 giorni so già 2 presentazioni del Duca, ma il Duca al terzo mi pari la birra. Così. Avendo vissuto io tante volte il Duca, ci conosciamo, ne parlavo io, vedete, sono stato a Castelforzano, ero ragazzino. Questa fine degli anni 70 che è stata una botta di culo incredibile, perché praticamente sono riuscito a vederla. Questa cosa che fu gli anni 70, poi arrivano gli 80, noi da fricchettoni diventammo punk, i più giovani, perché quelli più grandi di noi sono rimasti di capelloni, e vivemmo questi anni 80 in una maniera un po' particolare. È vero che ci sono stati le prime occupazioni dei centri sociali, però poi all'improvviso, il Duca lo dice sempre, il Lupo, a me mi chiamano il Lupo, ci ha messo tanti anni a laureare, è stata una fortuna perché io alla Pantera ancora stavo a leggere. Non ero laureato e quindi stavo come studente. Questa è una cosa carina, se no sarei stato l'ex studente che andava lì, poi c'erano tanti. Io stavo proprio lì, una fortuna incredibile, o meno male che ci ho messo tempo. E ti incontro il Duca e altra gente che non conoscevo se non nel sentito dire, perché frequentavamo. Noi frequentavamo Via De Vasci da ragazzini, perché io mi ricordo già nel 78 e varie storie, però comunque giracchiavamo, invece del becco tutta sta gente della Sapienza e di altre facoltà e ovviamente anche in giro per l'Italia, all'improvviso ci ritrovavamo dentro questa formazione e cominciava tutta una storia, tutto quello che è partito da lì. E quella è stata una cosa che tutto sommato eravamo già grandicelli. Sì, però io ti vorrei spezzare una lancia a favore, visto che tanto se ne parla pure qua, con i tuoi esordi, che conosci fuori dei banchi, le botte di Anubia, il Movimento 85, perché in quel piccolo, e se vuoi metti inutile movimento, però è stato importantissimo, perché se non c'era il Movimento 85 non ci sarebbero state le prime preoccupazioni a Roma dei centri sociali in 86, a febbraio il Sisso, a marzo il Blitz e a maggio il Forte, perché le riunioni con un pagno di Marmelaina, del vecchio comitato di Marmelaina, i pischelli punk del Blitz e più 2 vecchi studenti medio autonomi tipo Mario, per quelli della Tiburtina, più i vecchi compagni di Centocelle che però si erano spostati alle nuovi linguaggi, perciò al punk dall'83 organizzavano davanti al Forte la festa del non lavoro. Per il gruppo mio, che prima quando stavamo a Barmelana avevamo già fatto 81-82 concerti a Villata, perché volevamo occupare un centro sociale, andavamo a sentire lo stesso, perché pure eravamo usciti fuori da Barmelana, perché per noi l'autonomia operaia muore quando si disarma dopo l'ultima autoconvocazione, dopo l'attentato alla radio. Perciò per noi, dopo quella cosa, giusto che i compagni si sono disarmati perché era inutile, ormai continua a essere così, però l'autonomia operaia non esisteva più per noi. E se eravamo sciolti, se ripresentavamo nell'85 e andavamo a sentirsi riunioni. Se non ci fossero state quel movimento che ha ridato un po' di coraggio, quelle riunioni all'atere dell'assemblea di chimica biologica ogni pomeriggio, quel movimento non ci sarebbe stato. E durante gli anni 80, noi quando siamo arrivati con la Pantera, si è scoperto tutto con la Pantera. Ma noi eravamo preparati, il virus c'era scappato dal laboratorio nostro, che abbiamo portato e ha contaminato tutti. Perché in finale il virus che ha creato nei nostri sfigati laboratori, dei centri sociali dell'epoca, che non erano come quelli degli anni 90, era proprio anche il palco dove facevi suonare artisti, o l'amplificazione di Anaconda, era Dio ce ne salvi proprio, meglio lo stereo di casa era per come si sentiva, però lì si è creata un'alchimia, o le persone che c'erano, sarà la fisica e la chimica dei corpi, però quello cristiano non l'ho mai letto, però quello che chiamano quel filum macchinico che attraverso i corpi assembla una macchina, un'unità di guerra in poche parole. E noi siamo arrivati preparati nel 90, la prima settimana non contavamo un cazzo, ma manco dentro i compagni, perché si era picavo, dovevamo fare nel corteo circense e nel nulla, giusto Davidino ci appoggiava perché aveva capito, intelligente, questi matti ci hanno ragione, però noi quando siamo arrivati, quei pochi che c'eravamo dei centri sociali, lì eravamo già pronti, noi il virus già ce l'avevamo, già c'era riuscito scappando dal laboratorio. Il linguaggio, che comunque è una cosa virale, è lì, perché poi diventa riproducibile, è lì che abbiamo vinto culturalmente, la battaglia culturale, e poi detto occupazione anche politica, nell'egemonia, eravamo già pronti, eravamo. Quello, perché non comunque... una mozione d'ordine, raccontiamo che cos'è la pantera, se no facciamo la vittoria di Genova. Ma io come qui, tutti vecchi, la pantera, però come scrivo, come scrivo pure nel libro, seguendo queste indicazioni del Duca, la pantera mi ha catturato perché era un enorme centro sociale, sì. Ogni facoltà era un centro sociale e quindi era diventato l'epicentro a Roma di quello che si muoveva, cioè le sere si andava alla Sapienza perché c'era sempre qualcosa. E quindi sì, era tutto lo strascico delle prime occupazioni della metà degli anni Ottanta che hanno creato il modello centro sociale che poi... Quello che stai dicendo io, che venivamo dagli anni 70, eravamo un po' più giovani, abbiamo visto gente più grande di noi che a un certo punto ha mollato. Noi eravamo ragazzini, ci stavamo dentro perché ci dovevamo fare. Cioè ci siamo buttati in mezzo, quindi per noi gli anni 70 sono passati così. Quando lui dice la pantera, certo che eravamo preparati perché già c'eravamo già... tante storie, però tutta quella gente che abbiamo incontrato, se tu te ricordi poi, perché la storia è la storia nostra, sono uscite delle cose, quando lei parlava di Off, quelle sono uscite da lì, dalla pantera. Quando parlavamo di Dorazine, perché non là ci siamo incontrati con tutti gli altri, e sono uscite delle grandi cose. Mo quando parlavamo della musica, noi facevamo le serate per finanziarci, però fondamentalmente non è che usciamo questi grandi soldi, perché noi facevamo dei gruppi che non li conosceva nessuno, però hanno un livello altissimo. Ci costavano pure, ci sono state per Stati Uniti. Gente che se tu dici nomi manco se conosco, perché poi insomma non hanno mai avuto. Quando però noi siamo andati al Valle, io ho avuto la fortuna di vedere gli Aria negli anni 70 con Demetrio, ero sempre una creatura, però l'ho visti due volte. Tra l'altro io abitavo in provincia, non abitavo a Roma, quindi le dico tutto, perché se stavo a Roma era più facile. Poi lo hanno fatto sti concerti quel periodo lì anche al Valle, no? Però io l'ho seguiti dappertutto perché ero rimasto folgorato, dico voglio sentire, e l'ho sentito diverse volte. Al Valle fecero un concerto diverso da quelli che facevano magari nel locale, perché era la stessa situazione, se vogliamo un tovaglio di Parco Lambro, ma stavamo a quel livello lì, però a livello alto, quindi è chiaro che lì quando parli di musica, a noi particolarmente, io suono pure, insomma, siamo pure insieme con lui, ci interessa, però anche le altre cose, noi abbiamo fatto il progetto Maglia Corti a Forte, che ancora la gente, Luchino degli Assalti disse, voi dovete fare gli attori, ti ricordi? Ancora la gente sta a ridere dall'epoca, no? Peccato che non ci abbiamo questi documenti perché il nostro cineasta poi morto, si drogava di brutto. E... Però ti voglio dire, questa cosa qui degli Aria, quella era una realtà, tra virgolette, rivoluzionaria, cioè gli Aria stavano lì a suonare come avevano suonato in altri tempi. Quando suonò Bollani, io vidi il primo concerto, c'era sta fila enorme che ci dissero, regà, famo due concerti, quindi ci cacciarono fuori. Però pure Bollani, che comunque ha un ruolo, se vogliamo, pubblico, tra virgolette, di successo. Lui è venuto lì perché quella è una realtà viva, capito? Ha suonato, ci ha fatto divertire, perché comunque la gente suona, ti dico pure il livello tecnico delle persone, se lo vogliamo mettere. Ma a parte fior di gruppi. Quando sono venuti Fugazzi, cioè stavamo a parlare del top del una rock. Una volta, i Fugazzi sono venuti. Mano Negra. Sono venuti tipo 3 o 4 sì, volte. Sì, però ti voglio dire che, a parte gli ultimi concerti che ho usato, che sono venuti ultimamente, cioè ti dico, gente che suona, cioè livelli altissimi, quindi valore enorme che c'ha. Io poi, tra l'altro, in maniera particolare, sono stato pure al Branco un periodo, a parte la parte danzereccia, però è venuta Jack, chitarrista, Goldi, Venne, cioè ti voglio dire, veramente gente dei livelli eccezionali. Però quella cosa lì, anni 80, poi nel 90 esplose, noi non ci conoscevamo, usci fuori di tutto, Luca. Noi, quello che scrivi tu adesso, i libri che fate, i concerti che abbiamo fatto e ancora facciamo, e tutto il resto, quello è partito da lì, sono passati un sacco di anni. Ah, perché secondo me io con questa cosa do ragione quando Bifo, una volta non mi ricordo se su Presagi, su quale libro che aveva fatto all'inizio anni 90, dice gli anni 80 tanto bistrattati, certo sono stati gli anni della quiescenza, gli anni che il conflitto sociale era stato cancellato, da un lato anni di merda, ma da un punto di vista culturale della creatività, tutto quello che abbiamo portato fuori negli anni 90, possa essere cyberpunk, possa essere hip hop, possa essere airpunk, il post punk, è nato la musica elettronica, ballereccia, è nato tutti gli anni 80, e il teatro. Ma in Italia gli anni 80, gruppi come teatrali come c'erano negli anni 80, tipo Falso Movimento, Gaia Scienza, i Magazzini Criminali, e i Clipton di Firenze, ci sono più stati, ma che Raffaello Santi era un betta per quanto bravi confronto a quella radicalità. Lo stesso Barbiero Corsetti di oggi, confronta la Gaia Scienza. Quelli erano gruppi della defragazione del 77, defragazione del 77, sconfitta del movimento a livello teatrale. Comunque, anche se lo spettacolo poteva non parlare di politica direttamente, però hanno rimesso in scena quello che ci avevano dentro, che usciva fuori dalla defragazione di un movimento, oppure il fatto che una vita era in un certo modo e ora si va a fare pere, o se no beve Campari a Milano. Pure il cinema, che ti posso dire, i film di Cronenberg, mo cito Cronenberg ma ne vorrei citare tanti altri, sono stati importanti pure per il rapporto uomo-macchina, quelle tecnologie, da Videodrom, da tanti che ha fatto così, ma pure dentro i compagni c'erano i gay, ma c'erano pochi che avevano coraggio a Roma, o diceva solo Porporina e la sorella di Francone, che potrebbe sfratare Francone del Policlinico. Porco Dio, il comandante Cocis, uno dei più cattivi del 77, scoperto quando è morto che era gay. Guarda anni fa, che l'amica sua ha detto brutti stronzi, ma avete saputo quello era gay. Come il comandante Cocis era gay, capitanava proprio all'assalto contro fascisti, protoni dei carabinieri. Però per dire chi è che è sdoganato? Ma c'erano gli anni 80, non fosse stato più film dal Modovare, ma pure noi compagni, questo stiamo ancora a discutere sull'omosessualità. Alla fine hanno fatto motivo, ritorno al discorso tuo sulla cultura, non è vero che non è politica, i film dal Modovar, sulla questione degli omosessuali o altri film sempre di quel periodo, tipo Another Country, quello con Rupert inglese, quell'altro che muore di AIDS francese, Le notti della terza luna, non mi ricordo che cazzo si chiamava, porco mondo, ce l'hanno sdoganata pure a noi compagni culturalmente, perché se no molti grossi compagni pure che erano gay non lo dicevano, ma tanto pure era gay, porco Dio del caso del capitano Colomo San Lorenzo, ma che cazzo lo sapeva che era gay? Non si diceva, porco Dio. Oppure chi lo sapeva, non gli faceva la battuta, perché in compagno non gliela posso fare, non lo devo dire all'arti che non lo sanno che è gay, perché se no, cazzo, che figura ci fa? Ma potevamo mandare a parlare con i proletari o a capitano al servizio d'ordine. No, perché i discorsi erano quelli, erano. Allora io ritorno, come c'è coro su queste cose, per il fatto che lo spettacolo che fai te fai bene, fa trasmissioni di teatro, di cinema, per quanto adesso non c'è, secondo me, quella creatività degli anni 80 e quella valenza politica che ci hanno avuto, proprio perché la politica fuori in c'era, la potevi esprimere solo in quel modo, solo nelle varie, chiamiamole arti, pure intendo messo a sul cazzo, però con quei linguaggi là, se no... Oggi c'è il documentario, sì, come mezzo per raccontare la realtà e anche prefigurare mondi possibili. Un'altra cosa del tuo libro che secondo me è importantissima è che non è un libro reducista, perché quando uno parla del passato c'è sempre, quasi umana, la tentazione di fare l'esaltazione del proprio passato da reduce o da attivista o da militante, ma è un libro che appunto fotografa degli anni, li racconta per la tua sensibilità. Anche le tante cazzate che uno ha fatto. Ma certo, le cazzate le abbiamo fatte tante. Non ne facciamo. Ma magari, io penso, stati 30 anni in cui c'è state milioni di luci e qualche ombra c'è stato. Magari... Se fai le cose per forza, le cose. È chiaro, quando stai pure il rapporto con la strada, genera complessità, no? Genera complessità e te fa fare la finanza, sul primo. Lo sappiamo bene. Però sì, pure il rapporto, potresti confermare a te, per esempio vostro, oppure con le istituzioni si fa fare una finaccia, perché poi abbiamo perso quella finaccia. No! Ossia, tutte quelle sperimentazioni che abbiamo portato avanti e quei tentativi da quelli istituzionali di ritornare a contatto con la strada, poi alla fine non è che era sbagliato farlo. Ma che lo stesso discorso sulla tecnologia, però mo se ritroviamo con i social network, guardarla adesso, abbiamo toppato tutto. Perché la volta che poi dopo, la volta che te crollano i tuoi gemelli addosso, comunque tutto quello che hai fatto. No, ma il tema è il rapporto. Non voglio fare il tema col capitalismo, poi c'è che te può stare all'avanguardia quanto te pare, poi dopo te che c'è un processo di sussunzione che ancora nessuno ha capito come fermarla sta roba qui. L'esempio migliore lo fece sulla sussunzione del capitale, la fece sotto Pantera, un compagno che veniva ai seminari quando c'erano cyberpunk, quelli sul situazionismo, si presentava sempre il compagno di Terni, forse un ex 77, forse deve essere un allievo di Oreste, di Scalzone, che a un certo punto fa per spiegare la sussunzione reale, hanno qualcuno sussunzione, nessuno capiva, lui fa, secondo voi il frontalino, chi l'ha inventato? La Pioneer o il tossico di eroina? No, è il tossico di eroina che rompeva e si portava via, ora si attacca al cazzo e ha costretto il capitale, la Pioneer, a inventarsi il frontalino. Questa è la sussunzione. L'innovazione viene sempre dalla strada, ha fatto il tossico, che diceva no, se ancora vi fate così siete costretti a innovare, perché se no continuano a rubarveli. Quello è stato l'esempio, secondo me, più bello che ho mai sentito sulla sostituzione reale. Ma tu ti sei drogato poco? Poco, diciamo poco, sì. Allora c'erano dei drogati di più. Noi ci siamo drogati un po' di più, infatti Duca si vede bene. Un po' troppo. Tu che parli della omosessualità degli altri, quando andavamo a vedere Callaghan ci prendevano mettere gay della serie, che io ancora sono rimasto uno dei sei. Uno stigma. Io andavamo noi in tre. A me sotto Pantera, le storie che ci ha avuto durante i due mesi di Pantera, tutte e tre erano convinte che ero gay, e non lo dicevo. Siamo sempre azione, la gente diceva che eravamo gay. Della serie che io invece mancherebbe, però non mi dispiace. Tu ti dicevi a proposito dei social network, Luca vede questo lato negativo, in realtà è sempre la questione del me, no? Io manterrei al libro stasera, perché sappiamo la parentesi dei social network. Ah, io invece vorrei, parlare di una cosa, grande secondo me, da dire di Federico. Il capitale, tu fai il punk e che secondo me me lo ritrovo a fine, non è tanto che siamo alla fine amici, compagni, perché siamo senza essere mai chiamati per altri cazzi se non legati a quello che uno fa nell'ambito così della politica. Cortei, manifestazioni, riot, fughe quando la polizia carica, che scappi degli incontri in mezzo così, feste nei centri sociali, qualche festa privata. No, quello che voglio aspettare è che l'affinità che trovi te e che comunque ti piace e dedichi pure un passaggio importante sul libro, perdere tempo in alcune in baretti che sono delle barricate urbane, come il San Calisso o il Marani, ma più di tutto è il San Calisso, perché al di là di tutte le chiacchiere che noi facciamo sulla gentrificazione, l'unico che ha combattuto la gentrificazione poi, da sempre, il San Calisso, che resiste come una barricata. E questa cosa che tu hai messo nel libro ha fatto molto piacere, che tu hai parlato. Io l'ho conosciuto quando andavo al liceo, quindi stiamo a parlare degli anni 80, chiaramente era molto diverso, poi nel corso degli anni, dai 90 in poi, c'è stata la doppia frequentazione, qui la mattina fino al pomeriggio i trasteverini, la sera tutto il mondo. Però invece negli anni 80 c'erano solo i trasteverini e i primi punk che giravano. Ci sono stati bei conflitti tra i coatti, i bulli trasteverini e i punk che sta giravano. Io a un certo punto andavo sempre con il zippetto mio, con la punta, con quelli del forte, però l'ala punk del forte, e poi a un certo punto hanno smesso da nascere a San Calisto, perché sono stati troppi conflitti con i locali. San Calisto comunque ha mantenuto dei prezzi ancora del tempo. Okay, ma gelato a 1,50, euro, a un euro, è vero, a un euro. Ma la struttura interna, la struttura interna è rimasta agli anni 70. Forse anche prima degli anni 70. Ha dato vita 2 anni fa una campagna contro la chiusura del sociale. Ancora diciamo, l'anello di congiunzione in quell'ambito è stato Raimondo, Incubo, che era il punk che però era accettato da tutti. Lui faceva il teatro lì, era veramente un'attrazione. Io con la bombetta, i vari tutti. Non mi è fatto venire in mente rispetto al bar. Chi l'ha letto si è accorto, per esempio, dei dettagli che io ho disseminato nel libro rispetto alla storia più maiuscola di quello che succedeva intorno. E quello è perché è comunque, anche se a posteriori, è un diario emozionale, quindi è legato a inezie magari che però per te hanno significato tanto. Però guarda, per uno che scrive, per il lettore che deve capire, metti casuale uno più giovane o uno più vecchio che però certe cose non si è vissute, metti, ne so, uno dell'età, mi pare, che dite, se tu metti il dettaglio, allora se è legato a un personaggio fai capire il personaggio con un dettaglio senza 200 pagine come fanno i Vuming, perché già a me basta, sapendo fare quello che ha la bombetta così già mi viene da ridere, a me già capisco il personaggio, per dirti, il fastidio che poteva dare a tutti e se muoveva per i tavoli, già me lo sono immaginato da quel dettaglio lì. Però per il lettore non solo aiuta a crescere il personaggio, ma anche il dettaglio è quello che ti costruisce il set, l'ambiente. E se tu devi inquadrare una storia, te in vari periodi storici, quasi 30 anni di storia, però il dettaglio in ogni periodo ti fa capire l'ambiente, com'era lo scenario. Lo scenario, secondo me, in un romanzo è importante. Lo scenario lo costruisci con i dettagli, lo costruisci sul dettaglio della camicia, del pantalone, del mobile, dell'arredamento del bar, la scritta sul muro, le foto che ci stanno attaccate al bar, capito? Queste cose, o in cameretta di uno dei personaggi del libro. Un cavallo c'ha una strada. Che cosa? quando ci vuole. Che l'ha creato un immaginario. Io a 15 anni quando sono scesa alla strada la prima volta. Ma gli anni 80 e gli anni 90, abbiamo capito, eravamo forti, eravamo arrivati alla pantera a casa tutti. E poi lì hanno arrestato tutti, era stato uno sgombero vincente. Vabbè, no, lo sapevano, no, era una scelta. Sì. È stata una scelta, hanno bevuto. Hanno bevuto quell'amico mio, Giovanni l'Autonomo. Qua forza di acidi si è perso. Io compro il libro. Comprate il libro. Chi non ce l'ha, comprate il libro. E mi fa la testa. È certo.